che il sole nel leone è un ottimo segnale di salute zodiacale. Così ho pensato bene, non mi devo preoccupare. Si va verso l'estate, il sole non verrà a mancare. Sappiate